Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Riprendo il mio viaggio, guardo fuori dal finestrino, osservo il mio tablet. Vedo che vi siete molto indignati per la ragazza che una settimana fa raccontò di come era facile per lei mettersi a disposizione di nuove relazioni social network. Beh, ci ho nuovamente davanti, lei nel suo viaggio di ritorno, io sono nel mio viaggio di andata, sempre verso la stessa destinazione, verso la fine del binario, dove forse, chissà, ma forse ci penso soltanto io e non esiste, una donna forse mi aspetterà. Vabbè, senti, invece durante questi 9 anni ti mancava tutto questo universo di relazioni? No. Perché? Eri appagata da te? Ma, beh, sì, certo. Certo, essere ricordati come un bel sì dopo 9 anni. È da suicidio, spero che non ascolti. No, infatti. Però, insomma, tutta questa giungla ne potevo fare tranquillamente. Ma sapevi che esisteva? Sì, sapevo che esisteva e le guardavo così, con fare snob. Dicevo, ah, che poveracci, guarda che stronzata. Invece io ho tutto quello che mi serve, esatto, in casa. Invece manco. E con l'occhio del poi avevi tutto quello che ti serviva in casa? Ma avevo quello che in quel momento credevo mi servisse. Beh, un momento in 9 anni non è proprio un momento. Ma infatti sì, ma alla fine era costruito tutto così. Quindi andava, anche se non andava bene, andava bene, questo è il punto. Perché era quello. Cioè, se c'hai 30 anni e dai 20 ai 30 stai con uno, la tua vita è quella, no? Cioè, quello che c'era prima ha contato, però è normale che sei cresciuto. Ma sono 9 anni buttati via? No. Sono, per adesso sono ancora il grosso della mia vita. Senti, com'è stata la fase immediatamente dopo? È vero che c'è questa sorta di momento di follia mignottesca? Sì. No, per sapere. No, perché gli uomini si deprimono, bevono, fanno cose strane. E dopo un mese sono già fidanzati con un'altra. No, le donne no. Io ho fatto tutto. Cioè, chiedimi la cosa più strana che una persona può fare. Sei uscita con animali da cortile? Con gli animali no. Però, che ne so, sono uscita con i comici. Cioè, ti rendi conto? Uscire con i comici? Con un comico, cioè come si Vabbè, fa? Ma un comico mica, cioè, è un uomo come un altro. No. No, pazzi, insomma, un anellato. Beh, un comico, no, perché il comico lo poni all'apice della categoria degli impresentabili? Un comico. Uno fa ridere, poi quando è normale, triste. No, è pesante. Pesantissimo. Sì, molto. Devo fare le battute. No, dico, per il livello di narcisismo, no? È presente le attrici, cioè i comici sono le attrici delle attrici. Ah, un comico famoso? Abbastanza. Tutti dicono, che bello, facci una battuta, io a sti cazzi, e tutti a ridere. Così. No, invece quando state insieme nell'intimità? Si parlava dell'Occidente. Una tristezza, da suicidio. Sì, esatto. Poi un altro momento di degradazione qual è stato? Beh, mi sono fatta i capelli biondi, sono andata... Bionda tutta sopra e sotto? No, sotto no. No, per sapere. Oddio, ho fatto, non so, mi sono iscritta a Zumba. A Zumba Dance? E sì. L'hai fatta l'istruttore? No, era la donna l'istruttrice. Però Zumba a altissimi livelli, ho fatto lezione con 5.000 persone, con l'inventore, con Beto Perez. E quindi? Cioè ero pazza, ero invasata, una e specie poi? Di Medjugorje dello sport. Sì, ma Zumba cos'è? È un posto di acchiappo? No, oddio, il tipo che viene a Zumba per acchiappare è veramente triste. Quello, per quello c'è il tango e la salsa. Bravi, però ci arrivo tra un po', perché tango siamo già intorno ai 40, io ne ho solo 32. tutto, tutto. È il tango è inequivocabile. Il tango, quando sarò al tango. C'è il libero struscio dal primo istante, quindi. E anche lì acchiappo. Se no, acchiappi mentre balli, già acchiappato. Sì, infatti. Il ballo stesso è un acchiappare. C'era l'ipotesi corso di salsa, La salsa quella sì. Però non ero ancora pronta, ma lo sarò. E altre aree non protette quali sono? Aree non protette? Andare a ballare e scoprire che inizio a piacere ai ventenni. Sei quasi MILF. Ti rendi conto, sì. Anche questa è stata una scoperta interessante. Vabbè, fortunata, scusa. Vedremo. Puoi cogliere in alto e cogliere in basso. Sì, diciamo forse più in basso, perché in alto è sempre complicato. Ma mica tanto, guarda. Ah, fidati. Guardati intorno, fidati. Ah, ma proprio in alto, in alto. Beh, sì. In alto medio. In alto medio vuol dire il quarantenne. No, il quarantenne, guarda, cioè non se ne può, basta. Perché? È il più ambito, tutte cercano un quarantenne. Appunto, e se la tirano, manco fossero loro le bionde. Eh beh, perché in quel momento sono rarissimi, lo sai. Un quarantenne single è rarissimo. È la nuova bionda. Sì. Is the new blonde. Tutti lo cercano al quarantenne. Sì. Sì, perché tutti vorrebbero, perché le donne in realtà dopo una vita dissoluta vorrebbero accasarsi, avere una famiglia, dei figli, una stabilità, un uomo che le ami, via dicendo. E a questo pensiero ci arrivano più o meno verso i 40-45 anni. Si guardano intorno e vedono che gli uomini della loro età sono tutti o sposati, o separati, o disastrati, o sono passati all'altra sponda decisamente. Esatto. Come, quindi trovare un quarantenne, 45enne disponibile, giusto un vedovo, ma il vedovo quanto dura? Il tempo del funerale, subito immediatamente ritrova. E io sono nel pieno di questo vortice. E cos'è all'apice del tuo desiderio, cosa ci sarebbe? Ancora non lo so. E non lo devi sapere. Ma come tipologia di uomo? Ma tanto diamo fascia d'età. Fascia d'età? Quarantenne. Sì. La bionda. La bionda, in realtà sì. La bionda, se single naturalmente. Guarda, sono diviso tra la bionda e il 25enne con un po' di cervello. Sì, ma 25enne ti dà quattro botte, poi ti molla. Beh, intanto ti dà le botte, senza tirarsela troppo. No, quello no, assolutamente. Non mi sembra poco. E il 50enne? Troppo oltre. Guarda, il 50enne sono molto a rischio. Sei a rischio, sì. Di trovarlo. Perché è di solito il 50enne inizia a guardare la 30enne come la donna. Poi si accorge, può avere anche la 18enne, quindi. Sì, è sempre così. Quindi secondo me è il caso che io guardi i 18enni e i 20enni, no? Sì, io se potessi darti un consiglio scellerato, approfitterei della fase MILF finché ancora te lo puoi permettere. Quindi attingerei nel basso. Poi mi stabilizzerei comunque su rapporti soddisfacenti, ma anche di buon contenuto dal punto di vista del potere d'acquisto, quindi mi stabilizzerei con qualche 45enne, 50enne, anche se già sistemato, comunque ti può dare dei piacevoli weekend, delle belle vacanze, dei bei regali, e poi alla fine della tua esistenza puoi buttarti sul 70enne, l'80enne, che ancora magari puoi tirarci fuori il futuro per la tua vita naturalmente, può arrivare tranquillamente alla fine dei tuoi giorni con una tranquillità economica sentimentalmente appagata e con una buona esperienza anche dal punto di vista fisico. Bene, mi sembra un piano proprio perfetto. E invece cosa farai? Ma invece secondo me tra un po' finirò in un'altra storia incasinata, mi incasinerò ancora di più perché magari ci farò anche un figlio e poi tra qualche anno mi troverò nuovamente da sola ad affrontare una nuova giungla, ma con una diversa coscienza. Però guarda, sei fortunata, perché guarda, il tracollo fisico della natura ti salverà da tutto questo. Buon viaggio, devo scendere. Ciao, figliola. Ciao. Il treno va. Oramai è un destino perché Visto che anche io sono diventato un pendolare, è facile che rincontri sempre le persone che ormai fanno gli stessi viaggi. Sono diventato un abitué del treno e quindi rincontro anche la ragazza disperata, sempre quella degli amori impossibili, degli amori infiniti, degli amori onirici, degli amori pensati. Ma perché incontro sempre donne disperate in amore? No, vuoi dirmi che tu non sei mai stata contemporaneamente con due persone? No. Ma non contemporaneamente nella stessa situazione di luogo di tempo. Cioè, nel senso, tu hai una storia, ti affaccia un'altra storia, prima di abbandonare la storia precedente, vedi, valuti quella nuova. Non è mai successo. Mi è successo di chiudere e aprire, sì, non di in contemporanea. Lasciare ex chiuso e poi aprire un altro. Eh sì, ma tu hai chiuso che già ne avevi aperta un'altra. No, vedevo che c'era la porta, ha detto non c'è un'altra porta. Sempre metafore fate voi donne. Allora, voglio capire esattamente, perché qua è importante per definire la strategia media. Tu stai con una persona e la storia ormai è finita, però ci sta insieme perché uno prima di mollare vede come gira il mondo. Puoi dire, guarda, oggi mi sono stufata, ciao. Anche se ti sei stufata. Sì, quella è la parte più dura poi secondo me, perché se una persona a cui tu vuoi bene, non vuoi ferire, è brutto dire... Guarda, ci ho pensato tra me e me e ti vorrei lasciare, lasciamoci, però ti voglio bene. No, non funziona così. Ci stai per compassione, però. No. È come un fratellino infelice. Deve essere una cosa che poi piano piano va. Uno spera sempre nell'eutanasia dell'amore, capito? Sì, esatto, l'eutanasia dell'amore. Però non la fai mai te l'eutanasia alla fine, che stai con la siringa in mano e dici, vabbè, adesso l'altra persona se ne accorgerà. Forse uno aspetta sempre che sia l'altro a fare il primo passo. No, poi alla fine sono Dio, non lo so, qualcuno lo farà, però se alla fine non funziona. Ok, sì, però questo è il punto su cui volevo portarti, perché intanto abbiamo un sacco di tempo. Ah, che bello! Sono appena partito. Che fortuna incontrarti su questo treno. No, perché è sempre questo l'argomento che tu mi susciti. Ah, io? Ma posso suscitare tante altre cose. No, ma però questo mi interessa per capire la dinamica. La persona, vabbè, questa ormai è nella fase putrescente. E tutti cominciamo da intorno, dice, finché non viene il chiodo scacciaghiodo, me lo tengo. No! No, anzi, cerco di evitare situazioni romantiche o carine con l'altra persona. Perché se poi sto lì e dentro di me penso, oddio sono insofferente, oddio che palle, poi alla fine diventa una sensazione di come dici te, di... Allora, con l'uomo attuale probabilmente stai in una situazione congelata. Ti concedi al minimo, eviti le situazioni romantiche, perché vuoi che muoia, che finisca sta storia. E speri che muoia di morte naturale, che non hai voglia di compiere l'omicidio. Esatto. Però nel frattempo una parte te sarà recettiva. Io dico esatto, poi ci penso, dico ma no, non è esatto, però ogni volta che incontro te la parola è esatto. Forse per no, perché neghi a te stessa la realtà. No, ma non è vero. Dicevo, la tua parte recettiva però si guarderà intorno, il radar è acceso, dice questo tanto. Quando il radar è acceso mi rendo conto a maggior ragione che non posso più stare con quella persona, perché se tu stai con una persona vuol dire che non te ne frega più di tanto chi ti passa intorno. Ma è mica sempre così. Poi tu sei un uomo, le donne alcune forse. Sì, adesso. Io e una la vicina di casa. Non sono romantiche, gli uomini sono maiali. No, però, no, assolutamente, ci mancherebbe altro. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Capita che magari se tu stai con una persona che ti attira fisicamente non è che oh ammazza che figo quello, ammazza e poi sì amore scusami ecco mi sono tornata. Ma perché fanno tutti così? Ma a me non succede, forse è una malformazione. No, sì amore, si dice mi prendo un periodo di riflessione. No, io non mi fido dei periodi di riflessione. Che è già un lascito. Perché a meno che proprio non è una storia importante di tanti anni così, non mi fido. Secondo me un periodo di riflessione è ok, ci siamo lasciati. Ecco, è uguale a un lascito il periodo di riflessione. Sì. Anche perché durante il periodo di riflessione. Stai a casa a pensare, a riflettere. No, e vuol dire adesso mi piglio, apro una finestra temporale in cui faccio i fatti miei, tu non mi puoi dire niente, poi vediamo come butta. Se è andata male, ritorno. Sì, però c'è sempre la presenza, secondo me, dell'altra persona. Dipende, certo, se è uno stalker ti chiama. Ma no, ma anche psicologicamente, cioè, questo però non è un. Penoso, lascito, questo è un periodo di riflessione, cioè dovrei riflettere. Forse. Senti, ma nella tua esperienza, gli uomini durante il periodo di riflessione cosa fanno? I patetici, non mangiano più, si lasciano crescere la barba? Dipende cosa vogliono. Se vogliono un periodo di riflessione e basta, oppure se vogliono tornare, se vogliono. Dipende, allora ti dico un segreto. Se l'uomo è l'accannatore, non gliene importa nulla, è tutto contento, periodo di riflessione, spera tu. Quanto dura questo periodo? Spera tutti. No, spera l'uomo che ti disintegri durante la riflessione, che non esisti più. Questo spera. Che qualcun altro macchiappa. No, che muori, scompari, sì, t'asfalti, non lo so, che non cambi, vai suora. Vado a vivere. Se l'uomo l'ha accannato, anche se non ti ama più assolutamente, non accetterà mai di essere accannato. Quindi per lui il periodo di riflessione è una sorta di tortura. Non aspetta altro, tu ritorni con lui per rimporre nuovamente su te ancora una volta la sua presenza e poi magari sperare che gli passi sta roba. Quindi certo, è il patetico, ti segue, ti chiama: amorino, come stai? Ti prego, pigliamoci qualcosa. Prova. Sì, oppure ti può scrivere tipo, che ne so, ti ho sempre amato. Ciao, sì, come va? Cioè inizia molto alla larga, no? Tipo, ah sai, ho ritrovato qualcosa, ho visto questa cosa. Poi, ma oggi che fai? Non sai proprio dire, vorrei fare una ripresina. Tanto se uno se la prende proprio da largo, proprio così, e per dire oggi che fai alla fine, oppure quanto dura sto periodo? Ma c'è questa strategia che poi, che ne so, vuol fare una tipo invita a cena come Verdone con la Gerini, si invita a cena facendo distaccati, ricostruiamo il nostro rapporto. Mamma mia, facciamoci una vacanza. Sì, sì, guarda, facciamo finta, azzeriamo tutto, ricominciamo, facciamo finta che ci dobbiamo conoscere, sai, nei film che si ripresentano una volta. È terribile, l'umanità è fatta di svariati miliardi di persone, perché non vuoi ritornare con la stessa persona? Ma più che altro la domanda è: ok, magari quella persona, cioè vi siete scambiati tutto quello che potete scambiarvi. Tanto è una la cosa da scambiarsi, scambiata quella. Dopo di quella ti puoi scambiare altre cose, però poi ti riscambi sempre quello. Sempre quella roba, no? Lì. Sì. Se non ti vuoi più scambiare quella cosa, o comunque non vuoi più scambiarti con quella persona, vuoi cambiare mercatino. Magari, esatto, vuoi cambiare mercatino. Dicevo, quel mercatino l'hanno appena aperto, non l'avevo visto. Sono delle primizie. Andavo sempre a quell'altro, ce l'ho davanti casa, per esempio. E poi non ce l'hai mai davanti casa l'altro mercatino. Difficile. Oggi il mondo è allargato, però, dai. Sì, sì, c'è il mercatino online anche. Il mercatino online, sì. Che tu poi hai fatto mai acquisti? Tutti negano. Hai fatto acquisti al mercatino online? Online. E dai. Sì, ho valutato l'acquisto, ho visto il prezzo, ho detto, oh, mazza, forse è un acquisto che mi ricordavo di... mi piaceva un po' di tempo fa, così. Però, secondo me, perché no? Ma è un acquisto, ma l'hai fatto, sì, dai. E dai, ci devi pensare pure. Non sembra chissà che no, no, no, che no, rassegna non nego, infinita. Non nego, scusa, sennò qual è il bello della... Il mercatino online serve per questo. Sì, sennò qual è il... Per andare a prendere le primizie che non c'è più. Per mettere la foto tua e vedere le foto degli altri. No, c'è anche una sottofoto che è quella. Ti piace la mia foto? Se ti piace, vediamoci. Certo, no. Lo so. È doloroso, per molti sarà doloroso saperlo, ma diciamoci la verità. Quello è lo scopo. No, lo scopo è vedere nuovi mercatini e... Non dell'usato, dell'usato non lo so. Beh, se senti, le primizie ormai. No, ma nemmeno se vai a tingere negli asili. No, però il mercatino, cioè, dell'usato si è proprio usato, rimesso a nuovo, cioè lavato, pulito, dimenticato. Usato sicuro. Usato sicuro, dimenticato dalla storia precedente, proprio sì, di nuovo. Questo tuo modo di dire, però, rivela delle ferite insanabili e dolorose ancora aperte. Di condivisione con aree di. Di sovrapposizione di storie altrui, cioè hai condiviso uomini con altre donne? No, non te lo vengono a dire. Però ti capita che vuoi o ti capita che vorresti togliere un uomo a un'altra donna e non l'hai mai fatto, però scopri che è impossibile. Perché? Ma perché no? Perché allora, se vuoi farlo lo fai, poi la donna dice no, io mi sta bene così anche a me. Sì, magari i primi mesi, poi dopo alla fine arriva sempre il dunque, no? Quindi hai condiviso uomini con altre donne? No. Non hai mai portato via l'uomo un'amica? No. Ma è un uomo che stava con un'altra? No. Stava con un'altra e io provavo un sentimento, sì. Però quando ho visto nei suoi occhi che davanti a me c'era la foto dell'altra nella testa, ho detto ok, no. Vabbè, vai a trovare gente rimbecillita, scusa. Cotta come dei bambini alle per questo scuole ti dico elementari. Non mercatino dell'usato. Deve essere usato, rimesso a nuovo. Se ma no... un normale puttaniere che non ha scrupoli non l'ha mai trovato. sì, però alla fine poi quando si arriva al dunque non ti credere che sono tutti così macio, tutti così. Ma quindi sei rimasta delusa? Da delle attese non poi. No, attese no. Non attese nel presente, no, attese nel futuro. Secondo me l'attesa più sbagliata è quella del futuro. Ma tu che vuoi? Uno che ti sposa e ti ama tutta la vita? No. E che vuoi? Forse prima lo volevo. No, perché tutte le donne poi alla fine al dunque, no. Che volete? Bella domanda. È una domanda, che voglio vogliamo? Sapere. Ti posso fare delle ipotesi? Semplicemente una persona un che un uomo che ti ami. No, vabbè, ami. È una cavolata. Un uomo che sta con te e in quel momento sta con te. In quel momento, certo, mentre sta con te, sta con te. Questo però beh, la vita è fatta, la giornata è fatta di 24 ore. Questo da, le altre ore può anche stare in qualche altro posto, con qualcun però altro. I mercatini sono cambiati. Se tu ti fai una passeggiata nei mercatini, vedi tanti cartellini attaccati per finta. Ah sì sì, andiamo. Poi scopri che era molto usato e che appartiene ancora a qualcun altro magari. Ah ecco questo. E non voglio mettere i maglioni. Ah beh. Cose che appartengono. Sì, figurati i maglioni. Uno di noi ha un maglione strausato. Quando cominciamo a superare la pubertà, ormai siamo maglioni. Però deve essere mio e consapevolmente mio. E quindi un possesso totale su una persona. No. Voglio. No, ecco, già voglio. Non si dice. Vorrei. Vorrei, mi piacerebbe incontrare qualcuno. Non è un annuncio questo. Potrebbe. Dai, non mi piacerebbe incontrare qualcuno che non ha ancora le ferite. Le ferite ce le abbiamo tutti. Delle ferite addosso. Beh, ma devi andare nei seminari, dove devi andare a cercare dei persone? Seminari cuori spezzati, tanto manco nuovi. Detto no, però non lo so quanto l'ha fatto uno, guarda, poi quando lo incontro poi te lo dirò. Se lo incontrerò questa settimana ti dirò come, chi avrà non incontrato. Mi hai soddisfatto in questo viaggio, però. No, non mi hai detto nulla di concreto, personale, pruriginoso. Perché non è pruriginoso, perché sei nella fase sospesa. Perché non è sono nella fase sospesa. E quanto dura? Può durare una fase sospesa prima che subentrino, diciamo, degli effetti, degli effetti collaterali. La fase sospesa, la fase sospesa, poi diventi così sospeso come i palloncini dell'elio che non ti accorgi quanto stai salendo. Devi fare attenzione, perché poi che cosa succede ai palloncini dell'elio una volta che fanno sospeso? Oddio, scoppiano. Vabbè, se aspetti un po', ma stai scoppiando. Non me ne accorgo se sto scoppiando. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi mi stai facendo capire dall'ultimo viaggio è un momento di, diciamo, di deprivazione radicale delle tue passioni amorose. Sì, e non solo delle mie. Quelle degli altri che te ne importa. Gli altri. Quindi sei praticamente single dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Sì, per fortuna, però stiamo parlando di 2 settimane fa. Beh, almeno. Due settimane di sospensione sono tante. Sono tante, sì. Comincio a sentire il peso di questa cosa. Tanti pesi. Allora adesso non si può parlare seriamente, non sdrammatizzare, è una cosa grave. Stiamo parlando è una cosa grave. È una cosa gravissima. Sì, e che ti devo dire? Poi sti pesi. Ma dove stai andando? Stai cercando qualcuno? Vai in appuntamento. Sto cercando. Poi se ti rispondo che sto cercando me stessa, tu alzi gli occhi al cielo e dici, ecco, sì, che un'altra frase stronzata fatta. Cerchi me stessa. Perché come fai a cercare te stessa? Te stessa ti hai in mano dalla mattina alla sera. Potresti trovarti ogni giorno, tu questo ogni tesoro ti svegli, oddio, mi sono trovata. Ecco. Dovresti metterlo in mano a qualcun altro. Che lo valorizzi magari. Sì, che lo valorizzi. Ti faccio passare meglio il tempo. Che mi porti un attimo lo zaino. Non c'è nessuno alla stazione che porterà lo zaino. Può capitare. Senti, mi spieghi, poi ti lascio perché adesso va bene, sono arrivato. Come ci sono tante donne disperate e tanti uomini che se la sentono, se la tirano come se fossero una tua collega? Sì, ha parlato i quarantenni li chiama le nuove bionde, possono permettersi qualunque cosa. Tu le conosci le nuove bionde? Questi uomini che ormai single, strafighi, quarantenni possono col fascino scegliere. Anche, no? Dici del fascino del quarantenne, il fascino dell'uomo vissuto. Ma dove? A 40 anni ancora vivono in famiglia con i genitori, sì, vissuti. A parte quello, anche se fosse vissuto, bisogna vedere in che senso. Si torna sempre al mercatino dell'usato. Usato o vissuto? Ma il tuo range qual è, diciamo? In che fascia ti muovi? Guarda, un tempo pensavo che quelli più grandi anagraficamente avessero una marcia in più. Invece. Da una parte di me continuo a pensarlo, però sinceramente. Beh, dammi una fascia d'età. Che ne so, 30 in su. E in su fino a quanto? Fino a 90, scusa. No, è vero, aspetta, poniamo un attimo un paletto di limite. Ma non lo so, 30, 40. 30, 50. 40. Però vedi, se nella fascia più appetibile. 30-40 anni delle oggi biondone, sono le bionde, le bionde che tutte vorrebbero, perché le vorrebbero le ragazzine, perché hanno un potere d'acquisto maggiore dei coetanei, quindi 19 anni cercano i 30 anni, le MILF 50 anni cercano i 30 anni, cercano i 30 anni, perciò cercano tutti le biondone, il 30enne oggi figurati 30-40. Non ha che l'imbarazzo della scelta. Sì, c'ha ragione. E quindi allora devo cambiare fascia d'età? Eh no, perché la concorrenza vedi, c'è una concorrenza diciamo in basso. Mio fratello ha 17 anni. Beh, 17 anni. Sono troppo piccoli, però. Ah no, 17 anni no. Poi non sai, a 17 anni ci vuole almeno una 45 anni con un alto potere d'acquisto, se no non perdono sì, tempo. Vero, no. Se no vogliono una carne giovane. Ma non è la carne giovane, 17 anni, basta un buco sul sono muro. Sono già tutti fidanzati. E che respira. Sì. Il mio amico dice sempre: devo dire fidanzati e non fidanzati. Fidanzati a 17 anni. Fidanzati, sì. Grandi storie d'amore, perché la vita mi sta ferendo e tu senza di me come farai, io come farò, mi ammazzerò. Veramente? Pensa che saranno 40 anni, che noia di veramente, uomo. Capelli ormai piastrati che non ce l'hanno più. Cuori infranti, storie d'amore biennali. Io mi sento veramente. Il vero problema, sarà di quelle che oggi hanno 5 anni. Tra 15 anni cosa faranno? Ma non troveranno più uomini, sarà veramente no, non difficile. saranno tutti presi da quelli dei 40, saranno andati più avanti, però secondo me faranno ancora più. Beh, io farò parte della fascia degli 80 anni, quindi ancora avrò delle chance. Oh, yeah. Gli 80 anni però. Gli 80 anni hanno ancora. Tra 20 anni fascino. Sarà un massimo. Sì, si sposterà poi. Tra 20 anni saranno gli unici uomini rimasti. Gli 80 si sposterà la fascia, secondo le donne capiscono che quelli dai 30 ai 40, 40-50, 50-60, piano piano saliamo. Ora dobbiamo scendere. Sì, no, io scendo, tu rimani. Io rimango, sempre sul treno. Cioè, ti lascio sola. Si dice che sul treno poi si incontra sempre qualcuno. Sì, io incontro sempre te però. Ritieniti fortunata. Hai ragione. Ciao. Sta per accadermi qualcosa di singolare, lo so. Mi ha contattato un ascoltatore. Mi ha contattato tramite l'indirizzo di posta elettronica iltrenova@radio24.it e mi ha detto che proprio perché in questo momento tutti parlano delle 50 sfumature di grigio e la trasgressione rispetto ai modelli usuali di sessualità sembra diventata di moda, ha deciso di confessarmi quello che è il suo problema, ma anche la radice più profonda di ogni sua gioia. Ha un rapporto, diciamo, complicato con sua moglie. Non vuole essere visto in faccia, quindi la sua confessione me la fa dallo spiraglio della porta della toilette del treno. È singolare, strano e probabilmente imbarazzante. Sono in piedi, davanti a una porta socchiusa del gabinetto dello scompartimento di un treno, dove dentro una persona mi racconta vergognosa la sua storia di piacere, di lussuria e di tormento. Io ho 36 anni, mia moglie ne ha 34. Conosco mia moglie da 15 anni, sono sposato da 10. Da quando l'ho conosciuta ho sempre avuto un po' quella fantasia di sapere che magari può eccitare altri uomini e comunque altri uomini la possono trovare intrigante, eccitante. Lei comunque è sempre stata un po' provocatrice. E mi ricordo che all'inizio questo mi dava fastidio perché magari uscivamo, lei era vestita in un certo modo, mi dava fastidio che la guardassi. Nello stesso momento provavo anche degli stimoli, un'eccitazione, no? 50 e 50. Un po' ne ero geloso e un po' la cosa mi intrigava. La cosa è voluta che magari lei, tornando a casa dal lavoro, mi dice: guarda che sai, ho conosciuto questo ragazzo qui, è molto più giovane di me, e sai che mi ha invitato ad uscire. Allora io gli dicevo: ma perché non ci esci? Allora io magari la provocavo, no? Gli dicevo: perché non ci esci? Ma dai, un ragazzino, cosa vuoi che esco con un ragazzino? Insomma, finché è uscita con questo ragazzo. Ecco, e da lì un po' cominciata questa cosa. Allora lei magari quando tornava a casa mi diceva se era successo qualcosa, come magari mi diceva che non era successo niente. Certo è che è un gran problema, probabilmente molto diffuso, più diffuso di quanto si pensi, ma come si può conciliare la gelosia, il senso di possesso, il lecito desiderio che una persona ti appartenga in quanto a te unita anche da vincolo matrimoniale in questo caso, e provare un'eccitazione profonda le cui radici psicoanalitiche non voglio qui analizzare, perché qualcun altro faccia tripudio carnale di quella stessa persona. Raccontava un po' cosa ci faceva insieme, e anche quando tornava a casa magari mi raccontava se aveva avuto un rapporto di che tipo. Dopodiché l'apoteosi per me era avere un rapporto con lei immediatamente dopo. Questa complicità sembrava assurdo e servita anche a stimolare un po' il matrimonio e a dare nuovi input, nuovi stimoli. Questa persona con lei è brava a letto, a me mi stimola essere ancora più bravo. Infatti io chiedo, voglio sapere tutto, voglio sapere cosa fa, voglio sapere se è dolce, se non è dolce, se è romantico, se non è romantico, perché conoscendo bene mia moglie so se questa persona sbaglia o questa persona comunque riesce a trovare la strada giusta per sedurla e per fargli provare certe cose. Quindi per me è uno stimolo anche migliorare, soprattutto negli ultimi anni va veramente a gonfie vele. Lei mi dice, ma come fai ad accettare tutto questo? Comunque è una persona normale, a parte quelle fantasie che magari può avere una qualsiasi altra donna, no? Non riesce proprio a capire come posso. Infatti all'inizio è un po' in crisi perché ha detto, se tu mi spingi a fare certe cose vuol dire che non mi ami. Dopo ha capito che per me sono due cose completamente distinte. Lei è molto selettiva e non è per niente facile, nel senso che con 15 anni che sono insieme lei ha avuto solo tre storie, tra virgolette lunghe, quindi non ha rapporti occasionali, ha sempre trovato persone che comunque l'hanno rispettata, l'hanno corteggiata. Stasera devo uscire con quel ragazzo che ha avuto una storia di 3 anni. Io spero di tornare a casa presto perché voglio vedere quando si prepara, perché comunque lei mi ha detto, dimmi tu cosa mettere stasera, dimmi tu come mi devo truccare, le scarpe devo indossare. Lei mi coinvolge al 100%, da quando mi chiede, sai che mi ha chiesto di uscire, posso uscire, a quando magari si sta preparando, si deve preparare, che per me è tutto un rito molto importante, non c'è solo l'appuntamento o l'atto o quello che può fare mia moglie per se stesso, perché magari stasera non succede niente, anzi penso che non succede niente, e tutto muore lì. Essere a casa lì ad aspettarla magari per ore è un po' una tortura per me, perché comunque provo gelosia, provo ansia, però provo anche una profonda eccitazione. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Certo è che è un rapporto veramente complicato, però è anche un rapporto probabilmente di reciproca soddisfazione. La moglie può gestire tranquillamente le sue storie d'amore alternative, non è una donna che si dà, non è una donna che è presa da una compulsione erotica da film, da romanzo, no, ha delle storie d'amore, ha degli amanti, ma mentre normalmente la maggior parte delle donne deve nascondere gli amanti, per lei avere un amante è l'unica maniera che ha di tenersi sensualmente vicino al proprio marito, e lui è contento, è il tipico cornuto felice che trova eccitazione sessuale nel pensare che la sua donna sia oggetto di piacere per altri uomini. Ci sarebbe molto da dire di profondo, ma io lascio nascosto questo ascoltatore dietro lo spiraglio della toilette del treno e lo ringrazio del segreto che ci ha confessato. On parle de toi, on parle souvent, et tant de fois jusqu'à présent, sans réfléchir, sans faire d'esprit, d'un avenir cher à ce prix. Mais mon parler est bien trop franc, devant tes excuses à de francs, je pense encore être invincible. Il treno va. Quando un mendicante o una persona senza fissa dimora sale sul treno è perché immagina di poter avere un luogo riscaldato e comodo per poter dormire, per passare parte del suo tempo. Tanto non ha dimora fissa, lo dice il nome stesso della sua qualifica, è senza fissa dimora e quindi a lui ogni tanto piace avere una dimora che corre sulle rotaie. Poi viene scoperto, gli viene chiesto il biglietto, gli vengono chiesti i documenti, viene fatta salire la polizia ferroviaria e viene fatto scendere. Ma lui ha goduto per un istante l'euforia di poter vivere accanto a persone tranquille, ben lavate, ordinate, con soldi in tasca. Si riconosce soprattutto dall'odore, il suo odore è inconfondibile. È l'odore quasi di cadavere che assume una persona che vive allo stato brado. Questo mi ricorda che molte volte lo stesso incontro che ho fatto nel treno possa averlo fatto per le strade della mia città. Roma è una città dove si può tranquillamente dormire avvolti in un cartone, ai margini di un marciapiede, percorso da folla festante. Nessuno dice nulla, nessuno si indigna. Fa parte del sapore della città, forse secolarmente abituato al passaggio dei derelitti, pellegrini, questuanti. Chi vive a Roma sa riconoscere dove siano gli inquilini celati dai secolari anfratti. Basta quell'odore aspro di urina e marciume di carne umana, il tipico segnale dell'angolino di strada dove si nasconde un appartamento a cielo aperto. È uno spettacolo che non stupisce più. La città sotterranea dei derelitti si sta consolidando, tutti invisibili, finché qualcuno non si accorge della loro esistenza, perché sono morti. A volte si muore di stenti, altre volte si è vittime della giustizia spietata della stessa comunità dei disperati underground che si sta rafforzando con le sue leggi non scritte, pari passo alla crisi. Stiamo osservando un inizio di organizzazione sociale della città eterna dei disperati. Per qualche anno mi è capitato di passare a piedi poco prima dell'alba, tutte le mattine per quella piazza. La fila dei fagotti di straccio e giornali con dentro miseri umani addormentati è ordinata come se fossero schierati per una parata militare. Stanno tutti a ridosso della parte accanto al portone del sacrario, perché è probabilmente il punto sotto al colonnato di Marco Agrippa più riparato dalle intemperie. A cosa mai sarà valso appartenere a una stirpe di re per avere alla fine un giaciglio accanto a chi non possiede nulla e nessuno mai ricorderà del suo passaggio terreno? I re se ne staranno affondati nel raso delle loro bare, infilati in un sarcofago di marmo buio e freddo, irrigiditi nelle loro divise con gli alamari dorati, le medaglie, i collari, le spalline, le fasce azzurre, rosse o bianche. Avranno la sciabola tra le mani come se dovessero ancora difendersi. I baffoni intatti e unti di strutto, attaccati al teschio, e guarderanno con le occhiaie vuote il coperchio della cassa e penseranno ai regni perduti, alle regge, alle corti, alle battaglie, agli amori. A pochi metri dalla stessa posizione stanno i derelitti. Sono senza pensieri perché li ha bruciati tutti il vinaccio in scatola che li ha accompagnati nel loro giaciglio di cartone. Lo bevono proprio per fare tabula rasa di ogni rimpianto. Forse qualche volta si parlano e qualcuno di loro proporrà di scambiarsi i posti. Forse l'avranno anche fatto, ma nessuno avrà mai notato la differenza tra quegli uomini che giammai si guardano in faccia e le mummie dei sovrani in libera uscita per adocchiare qualche stella persa tra i tetti dei palazzi addormentati. Ecco, quando si avvicina l'ultima stazione per questa mattina, è il momento di dare libero ascolto all'audiolettera di una signora che mi scrive. Anche in questo caso è un problema di cuore, ma è visto con una accezione metafisica. È un problema cosmico, è qualcosa che va oltre la singola storia, è una scelta importante, drastica. Sono due categorie di persone che si guardano, si osservano e si invidiano, perché qualcuno ha qualcosa che l'altro non ha e qualcuno invidia l'altro qualcosa che lui non ha. Queste sono le persone che hanno una storia stabile e quelle che vanno cercando ancora il grande amore. Caro Gianluca, c'è qualcosa che vorrei che tu mi aiutassi a capire. Dopo una storia durata tanti anni, mi sono ritrovata immersa in qualcosa che non conoscevo davvero, la libertà. Tutta felice del mio amore, pensavo che la libertà fosse tutta lì, e cioè muovermi sicura nel mio mondo, con pochi elementi esterni a disturbare, a testa alta e mano nella mano nel nostro castello. Poi il castello è andato giù e sono precipitata nel burrone come Alice. Ma proprio come succedeva a lei, insieme a me in quel burrone cascavano un sacco di cose. E più cascavo e più mi sentivo libera. Libera di non esserci, libera di non rispondere, libera di non sentire, di partire senza lasciare la cena nel frigo, di scoprire ogni giorno una cosa divertente che non farò mai più. L'elenco potrebbe essere infinito, ma ti chiedo, sto sbagliando? Finirò anche io come quegli uomini su cui si punta il dito, quelli che non si vogliono impegnare nel mio monolocale soppalcato ma luminoso fino a 50 anni? Ma anche oltre i 50 anni, anche fino a 60, 70, 80, finché la vita ti darà fiato, cara amica. Guarda, il giudizio di essere persone che non si vogliono impegnare è semplicemente il rosicamento del mondo che ti guarda, del mondo accoppiato, del mondo serenamente avviato verso una vita a due fino alla fine dei propri giorni, che naturalmente guarda con grande senso di disprezzo la persona libera. Ma visto dall'interno probabilmente è tutt'altra cosa. La persona libera dice sì, che bello, non rinuncerei mai alla mia libertà, ma se un giorno ad esempio io mi ammalo, chi mi terrà la mano, chi mi porterà giorno per giorno le arance all'ospedale, chi mi starà vicino al momento alla vecchiaia? È difficile sanare queste due categorie, perché ognuno ha un pezzo della felicità che manca all'altro. Mi dico, no, non può essere, deve esserci un amore che sia anche sinonimo di libertà. Troppo semplice questa dicotomia. O liberi e felici, o in due ma col fiato sul collo. Ma la verità è che ormai vedo l'amore come una rinuncia consapevole ai propri spazi e ai propri tempi. Rinuncia che farai solo per qualcosa che è più importante della libertà. Ed esiste secondo te? Io stento a crederci. E tutte le coppie del mondo, allora, sono persone che non sono mai precipitate nel burrone, come me, come Alice, che non sanno che là fuori c'è un mondo pieno di cose. O forse lo sanno, ma preferiscono il castello. Questo è il grande dilemma. Nessuno mai avrà la certezza, nessuno mai avrà la formula risolutiva. Si può coniugare l'amore con la libertà? Beh, l'amore, quando è amore, quando è passione, qualcosa che ti prende, ti stravolge, difficilmente fa rimpiangere la libertà perduta, perché ogni spazio utile, ogni spazio emotivo è riempito da grande amore. Quando ci si pone il problema della libertà in concomitanza con un rapporto amoroso, vuol dire che l'amore è entrato nella sua fase saggia, nella sua fase quotidiana, nella sua fase della stima, e quindi ci manca qualcosa. Quindi ci manca la libertà, perché ricerchiamo quello che quell'amore non ci dà più. E quando la persona libera pensa che il grande amore possa riempire i suoi spazi, possa essere un castello inattaccabile, non il vortice, il precipizio, il buco senza fondo in cui precipita Alice, beh, probabilmente ha una visione molto esteriore di quello che accade all'interno di quella fortezza, molte volte luogo di tormento, che si abita non nella stanza del principe o della principessa, ma nell'antro sotterraneo delle torture e dei tormenti. There is nothing I can do, there is nothing I can do, is my answer to you. The way I see things doesn't leave much room. Oh, There is nothing I can do. There is nothing I can do except.